Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani, buona giornata a tutti. Allora, partire o non partire? Questo è il problema, un dubbio davvero amletico. Perché siamo, come dire, in preda a questo dubbio? Perché abbiamo il terrore di spendere quest'anno e di intaccare le nostre finanze che sono già provate dalla crisi economica. Però, anche per i più preoccupati, sappiate che è possibile partire spendendo poco. E siccome abbiamo lavorato tutti duramente durante tutto l'anno, ci meritiamo una vacanza, magari un po' più piccolina del solito, ma magari ce la possiamo appunto permettere ugualmente, anche se non lo crediamo. Allora, come si può fare? Possiamo sfruttare delle modalità alternative di vacanza. Io ve le elenco. Queste modalità, la terminologia è in inglese, ma chiaramente nel corso della trasmissione vi spiegheremo bene di che cosa si tratta: l'house sitting, il carpooling, il car sharing, le vacanze a roulette. Si può risparmiare poi, per un fenomeno invece molto più comprensibile, sull'affitto delle case vacanza. Salva Danaio illustra allora ai vacanzieri ancora indecisi come partire per le vacanze senza ritornare con il portafoglio praticamente svuotato ed eccessivamente leggero. Voi intanto raccontateci che cosa vi siete inventati per partire ugualmente ma per non spendere troppo all'800 24 00 24, oppure scriveteci al numero verde, al numero degli sms al 349, sono ubriaca anch'io, ormai è ora di andare in vacanza anche per me, eppure ci sarò ancora per tutta la prossima settimana. Vi dicevo, gli sms al 349 238 6666, scriveteci a salvadanaio@radio24.it, andate anche su Facebook se volete al nostro profilo salvadanaio-radio24, oppure conversate con noi attraverso Twitter su @salvadanaio24. Abbiamo davvero tanti ospiti stamattina che ci racconteranno queste appunto modalità alternative, vi dicevo, per fare una vacanza senza dilapidare le nostre finanze. Allora ringrazio intanto e saluto Daniele Nuzzo, fondatore di roadsharing.com. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno, un saluto a tutti che ascoltano noi. Buongiorno e benvenuta anche ad Elisabetta Griggio, titolare di Home Sitting Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno ad Isabella Tulipano, responsabile delle relazioni esterne di Solo Affitti. Buongiorno. Buongiorno a tutti. E più tardi vi presenteremo anche altri ospiti, chiaramente li abbiamo un po' spalmati nel corso di tutta la trasmissione. Prima di partire con tutto questo, oggi chiaramente vi vogliamo proporre, visto che oggi è il primo agosto, anche una puntata un po' più leggera, anche se poi domani ritorneremo sulle tematiche appunto economiche e finanziarie con le quali vi continueremo ad assillare ancora per qualche tempo, perché appunto abbiamo questo nuovo redditometro. Ieri è stata diramata la circolare dell'Agenzia delle Entrate con tutte le novità su questa versione che sta partendo appunto, quindi domani su questo tema ci ritorneremo con tutti i dettagli. Prima di tutto questo, però, ancora prima delle vacanze alternative, un'occhiata ai mercati finanziari. Brilla oggi la giornata di borsa per i listini del vecchio continente. Le giornate sono tutte concentrate sulle banche centrali. Ne abbiamo parlato anche diffusamente ieri pomeriggio a Focus Economia. Ieri è stata la giornata della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, che ha lasciato i tassi di interesse invariati in questo corridoio su cui sono fissati da tempo, tra lo 0 e lo 0,25%. E soprattutto la Federal Reserve ha detto che il piano di allentamento monetario della Banca Centrale appunto americana, che prevede l'acquisto di treasury, di titoli del tesoro statunitensi, ma anche di obbligazioni ipotecarie al passo di 85 miliardi di dollari al mese, al momento appunto resta invariato. Questo è stato comunicato ieri dalla Banca Centrale, ma era una notizia più o meno attesa, quindi il mercato non è stato particolarmente turbato. Il Dow Jones ha chiuso con un ribasso dello 0,14%, l'Europa invece va molto bene stamattina. Stamattina molto bene anche l'Asia, il Nikkei ha segnato più 2,47%. L'Europa, vi dicevo, Parigi più 0,47%, Francoforte in rialzo dell'1,16%, Londra più 0,41% e Milano più 1,16%. Vanno molto bene le banche a Piazza Affari stamattina, lo spread è sui 277 punti base, si è allargato perché stanno appunto scendendo i prezzi dei bund tedeschi. La Popolare di Milano è il miglior titolo, più 4,25%, l'Emilia Romagna più 3,79, Banco Popolare più 3, Fondiaria Assai più 2,90, Unicredit più 2,39. Nel giornale radio abbiamo parlato delle società che hanno rassegnato i risultati del semestre. Male quelli di Finmeccanica, che perde l'1,32%. Generali ha avuto gli utili più alti da 5 anni a questa parte, i migliori risultati appunto dal 2008. Il titolo era partito bene stamattina a Milano, poi ci ha ripensato, adesso scende dell'1,22%. Altro gruppo che ha rassegnato i risultati del trimestre, Eni, che in questo momento a Piazza Affari guadagna l'1,81%, e poi sotto i riflettori appunto anche per le novità giudiziarie delle ultime ore, Monte dei Paschi in rialzo dello 0,80%. Prima di andare alle vacanze alternative, una piccola comunicazione di servizio. Avete presente la puntata che abbiamo fatto ieri sulle check-up del nostro risparmio, il check-up del nostro portafoglio? Ebbene, un'iniziativa analoga alla puntata di Salvadanaio di ieri la farà il Sole 24 Ore, che per tutto il mese di agosto proporrà appunto agli ascoltatori una pagina quotidiana che vuole aiutare i lettori a riflettere sulle nuove tendenze dei mercati dopo la lunga fase di turbolenza per il debito pubblico in Europa e a studiare bene le proprie scelte in vista del rientro dopo le vacanze. Quindi un check-up quotidiano su tutti i prodotti di investimento presenti sul mercato, per cui non perdetevi i prossimi numeri. Lasciamo la borsa, i mercati, andiamo adesso alle nostre vacanze alternative. Partire o non partire? Questo è il problema. Se siete ancora in preda all'amletico dubbio, complice il terrore di dissanguare le vostre finanze già provate dalla crisi economica, sappiate che è possibile partire spendendo poco. Come? Sfruttando modalità alternative di vacanza. Per chi ama le sorprese, la nuova frontiera dei viaggi last minute sono le vacanze roulette. In cosa consistono? In breve, un'agenzia di viaggio espone un elenco di località turistiche e di strutture alberghiere e il cliente paga una quota di iscrizione senza sapere la meta della vacanza. La scoprirà solo all'ultimo momento, quando l'agenzia gli assegnerà una delle mete presenti nell'elenco in base alle disponibilità degli alberghi e ai posti rimasti invenduti. Per coloro che, oltre al risparmio e alle sorprese, amano la compagnia, la soluzione ideale è il carpooling, la condivisione dell'automobile e quindi anche dei costi del carburante. Una modalità di condivisione che stenta a decollare in Italia. Secondo un sondaggio condotto da Eurispes e Focus in collaborazione con Dacia, solo il 9% degli italiani ha sperimentato il carpooling. Per coloro che invece sono preoccupati di lasciare la casa incustodita durante le vacanze e per quelli che desiderano farsi una vacanza lavoro, c'è l'house sitting. Il servizio importato in Italia dagli Stati Uniti e dall'Australia consiste nell'offrire ospitalità temporanea e gratuita nella propria dimora a un'altra persona, che in cambio svolgerà lavoro temporaneo come custode, giardiniere, dog o cat sitter. Il rapporto di fiducia tra proprietario della casa e house sitter è il pilastro di questo tipo di vacanza. Pertanto intervengono apposite agenzie di intermediazione, garanti dell'affidabilità degli ospiti. 800 24 00 24, il numero verde per raccontarci in diretta le vostre appunto idee di vacanza all'insegno del risparmio, e se volete raccontateci anche se avete sperimentato le modalità delle quali parliamo questa mattina. Intanto andiamo sul tradizionale con i primi ascoltatori che ci stanno scrivendo al 349 238 6666. Marco da Torino dice: per spendere meno parto per la Sardegna col traghetto il giorno di Ferragosto, io, il mio amore, il mio piccolino. Bravo Marco, ci risaluti tutti quanti. Alessandra da Udine invece chiaramente ci suggerisce l'hotel low cost. E allora andiamo invece alle modalità di cui parliamo questa mattina. Bisogna partire, se dovessimo prendere l'auto, magari chiaramente possiamo, mediamente si fa. Daniele Nuzzo, fondatore di roadsharing.com, buongiorno. Se si parte magari in più famiglie, magari appunto le auto che si prendono sono un po' meno, ci si raggruppa all'interno della vettura, ma roadsharing esattamente appunto che cosa propone? Roadsharing propone un modo semplice, estremamente economico, per viaggiare utilizzando meglio le auto che già abbiamo. Faccio un esempio: in questo momento ci sono viaggi da Milano. Nuzzo, mi scusi, per caso sta parlando al viva voce? No. Guardi, la sentiamo un po' male, quindi va bene, ricominciamo. Dicevo appunto, lo sharing vi permette di viaggiare in modo molto economico usando meglio l'auto che già abbiamo, quindi usandola meglio, cercando di riempirla. Il sito permette di offrire, cercare passaggi auto per l'Italia o per tutta Europa in generale, specificando qual è il contributo spese che si richiede o che si è disposto a offrire. Daniele, facciamo una cosa, siccome ci piace molto questo concetto appunto della vacanza all'insegna della condivisione, soprattutto delle spese, vogliamo sentirla meglio, proviamo a ripristinare la telefonata. Evidentemente abbiamo un folletto che ce le manda tutte in malora appunto ultimamente, quindi riproviamo a ripristinare la telefonata. Andiamo invece ad Elisabetta Grigio di Home Sitting appunto di Milano. Elisabetta, ancora buongiorno. Allora, ieri abbiamo fatto molta fatica per cercare appunto qualche, come dire, gruppo italiano che si occupasse del coordinamento di questo modo di fare vacanza appunto italiano, perché abbiamo visto che è estremamente sviluppato soprattutto negli Stati Uniti, in Australia. Qui in Italia forse ha preso piede in tempi un po' più recenti, no? Però io vorrei fare una premessa. Sì. Temo che ci sia stato un malinteso, perché la mia agenzia non usa questa formula della permanenza nelle case, è quella poi più diffusa all'estero. Scusi, mi sento male. La sento malissimo, io non lo so, questa mattina evidentemente abbiamo qualcuno che ci ha lanciato una maledizione appunto sulla telefonata, vediamo di capire appunto se riesco a sentirla meglio. Sì, aspetti che faccio un tentativo, così mi sente meglio? Sì, adesso meglio, grazie. Benissimo. Ecco, questa formula di cui No, peggio di prima, Elisabetta, guardi, allora andiamo adesso a riprovare. Questa mattina ci sta succedendo di tutto, non so se è un problema di regia, ma non credo, sono proprio appunto linee telefoniche. Isabella Tulipano, ce la facciamo con lei, che dice? Speriamo di essere un po' più fortunati. Allora, andiamo in casa appunto in vacanza. La modalità della scelta della casa vacanza non è sicuramente niente di originale e particolare. Sicuramente l'originalità di quest'anno sta nella scelta dell'insegna del risparmio di molte famiglie appunto. Quanto hanno preventivato di spendere chi sceglie appunto questa modalità? Diciamo che abbiamo provato a chiedere ai nostri numerosi utenti qual è la soglia di spesa che pensano di potersi permettere in questa situazione particolare economica, e diciamo che la maggior parte, oltre il 65% dei nostri utenti, ci ha detto che sarebbero disposti a spendere fino a 1000 euro per 2 settimane, quindi insomma sicuramente gli italiani si devono un po' ingegnare per riuscire a trovare una soluzione di questo tipo. E nel caso delle affitti vacanze, quindi di quello che noi proponiamo su solaffittivacanze.it, il nostro è un portale che ti dà la possibilità di appunto affittare e scegliere la tua vacanza direttamente, e in questo caso pensare di andare in affitto può essere una soluzione per spendere un po' meno rispetto alla classica sistemazione dell'hotel, sicuramente anche qui ingegnandosi, quindi magari essendo disposti a suddividere gli spazi con coppie di amici, colleghi, insomma persone con cui poi si può pensare di trascorrere insomma un tempo abbastanza lungo e condividere gli spazi. Sono molte le offerte che noi abbiamo di mobili all'interno dei quali è possibile soggiornare in 4-6 persone, quindi condividendo un po' gli spazi, o addirittura pensare a un affitto, come fanno spesso all'estero, di ville, quindi di un immobile che solitamente viene percepito come di pregio, ma che in realtà con una spesa molto alta può essere suddiviso, e quindi mi permette di avere anche la piscina, di essere in location anche particolarmente di pregio. Allora, tra l'altro, per la modalità appunto della casa in affitto, siccome poi i contratti devono essere stipulati appunto in maniera molto corretta con i proprietari, l'importante è che si vada anche per accordarsi sulle spese magari con delle persone che si conoscono bene, in certo, modo da so che può sembrare una indicazione inutile, però insomma le indicazioni di buon senso non ci sembrano mai invece abbastanza, perché qualche volta invece a questi aspetti non si pensa. Vediamo se abbiamo recuperato Elisabetta Grigio. Ce l'abbiamo fatta, non lo so, evidentemente non vogliono intervenire, quindi prima andava tutto bene. Daniele Nuzzo, ce la facciamo con lei invece? Io ci sono. Eccoci meglio? Qua, adesso un po' meglio. Allora, road sharing, andiamo un po' a rispiegare bene in che cosa consiste appunto questa modalità di viaggiare insieme, chiaramente magari proprio in questo periodo in molti ne hanno approfittato in molti di questa opportunità in questo periodo, Nuzzo? Assolutamente sì, in questo momento abbiamo 6.000 percorsi attivi, qui ci sono 6.000 spostamenti da e verso l'Italia, molti italiani che vanno all'estero, in tutta Europa. Allora, ci racconti un po' come funzionano questi spostamenti attivi? La piattaforma in modo molto semplice permette a chi cerca offre un passaggio di mettersi in contatto con altre persone, quindi se io in mezzo alla destinazione e voglio usare la mia macchina posso proporre il viaggio e trovare altre persone da ospitare chiedendogli il contributo spese, viceversa se ho uno zaino in spalla, una borsa e voglio spostarmi posso vedere se la meta dove voglio arrivare è già coperta da qualcuno o mettere una richiesta, dire ho bisogno di un passaggio per Barcellona. In questo momento, tanto per darvi un'idea, ci sono dei viaggi da Milano a Barcellona fra i 50 e i 60 euro, Milano-Parigi 65 e Berlino 70. Quindi cifre che con altri mezzi è praticamente impossibile raggiungere. Quali condizioni devono essere messe molto bene in chiaro all'inizio prima di intraprendere appunto un'avventura di questo tipo tra più persone? Assolutamente. La persona di solito che offre il passaggio specifica il tipo di veicolo, specifica le sue abitudini, cioè se fuma, se ascolta la radio a tutto volume, ma soprattutto se fa delle soste intermedie, in modo da garantire quelli che saranno i tempi di viaggio. E poi il contributo spese che richiede in modo obbligatorio. Ci sono anche persone che danno passaggi gratuiti. In quel caso sono persone che magari, famiglie a volte che ospitano una persona, o persone magari con un furgone che hanno dello spazio. E poi il tipo di bagaglio, perché io magari sono con la famiglia e ho sposto per un solo zaino, non per due Samsonite infinite. Detto questo, le persone si contattano assolutamente prima del viaggio, prendono accordi, si contattano spesso in modo diretto via telefono e poi, rispettando l'appuntamento, partono insieme. Il sistema permette poi di dare un feedback, quindi se io ho viaggiato bene con Daniele lo dirò e Daniele quindi sarà un guidatore accettato, ricercato da altri. Come è nato questo, come dire, chiamiamolo così, fenomeno anche in Italia, sicuramente anche questo sperimentato in altre zone del mondo, ma appunto quali sono state le caratteristiche che hanno fatto in modo che anche in Italia appunto avesse successo? Perché in realtà noi italiani siamo un po' scettici, magari non siamo a volte molto disponibili anche ad una condivisione di questo tipo un po' al buio, no Nuzzo? Invece mi sembra che non sia poi così mal visto. Sta crescendo molto, sicuramente siamo indietro. In Europa siamo abbastanza indietro, i tedeschi sono i primi, poi i francesi, poi ci siamo noi gli spagnoli, questa è un po' la classifica della diffusione del carpooling in Europa, secondo le nostre verifiche, però confermate anche da altre piattaforme. Sicuramente la crisi, l'aspetto economico è un elemento fortissimo, quindi c'è una motivazione di sostenibilità ecologica, ma risparmiare, potersi permettere gli spostamenti è la prima motivazione. E poi chiaramente la diffusione di internet, l'abitudine ai sistemi di feedback, al fatto che la piattaforma stessa garantisca, ha aiutato moltissimo. Noi dall'ultima volta che ci siamo sentiti abbiamo praticamente raddoppiato l'utenza e c'è soprattutto nei periodi estivi dei picchi enormi di utilizzatori e anche di nuovi iscritti, persone che proprio con le vacanze scoprono il fenomeno carpooling e magari poi lo usano anche durante l'inverno. E poi magari ancora per i più scettici non è mica necessario assolutamente fare amicizia, certo se succede meglio, ma poi magari durante il viaggio si condividono le spese, si fa tutto quello che si deve fare, poi una volta arrivati alla meta ci si divide tranquillamente, no? Nuzzo, quindi si può essere anche... Esattamente. Allora andiamo a sentire qualche ascoltatore. Alberto dalla provincia di Biella, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti per la trasmissione. Grazie. Ma noi ci siamo trovati una soluzione in famiglia, amando molto la Sardegna, ci siamo resi conto che i prezzi erano cresciuti tantissimo, soprattutto dei trasporti. E allora insieme, andando sempre con i miei cognati, con due macchine, cercando, dividendoci un attimino il viaggio, quest'anno abbiamo deciso di viaggiare con una macchina sola, io ho la fortuna di avere un 7 posti, quindi viaggeremo tutti assieme. Quindi abbiamo scelto la giornata, come diceva l'altro ascoltatore, di Ferragosto e quindi ci imbarcheremo a Ferragosto che costa meno. Ma tra e poi l'altro abbiamo... mi dice Alberto che tipo di differenza di prezzo c'è tra un... Decisamente, guarda, una partenza a fine settimana e ho risparmiato 200 euro. Ma, cioè... in quattro, veramente incredibile, quindi decisamente da 900 euro a 700 euro sempre molto alto, perché devo andare fino a Piombino per poter risparmiare un pochino, però comunque abbiamo trovato una soluzione. E aggiungo anche un'iniziativa di tante strutture di villaggi che abbiamo sfruttato. Abbiamo preso una casa vacanza di proprietà di un villaggio che ha creato un'area residenziale dove prendiamo una casa unica con doppi servizi, con ovviamente gli spazi giusti, e ci dividiamo a metà le spese. Quindi devo dire che unendo queste tre soluzioni che abbiamo trovato abbiamo dimezzato i costi della vacanza. Accidenti Alberto, la ringrazio per tutti i suoi suggerimenti, insomma anche per chi davvero adesso è un po' frustrato perché ha dovuto rinunciare, magari per quest'anno alla fine non si riesce più ad organizzare e sta a casa, ma per l'anno prossimo, se magari le condizioni economiche continuano ad essere quelle un pochino precarie, ascoltate i nostri suggerimenti, ma soprattutto quelli dei nostri ascoltatori, perché insomma si può fare anche una vacanza, siccome ce lo meritiamo tutti, ma si possono appunto intraprendere dei percorsi che ci possono far tirare un sospiro di sollievo appunto al nostro portafoglio. Ritorno ad Elisabetta Griggio, perché appunto volevo specificare il famoso equivoco del quale parlava all'inizio. Io so che house sitting non fa esattamente il tema della vacanza. In realtà negli Stati Uniti però funziona così, perché c'è chi magari mette a disposizione la sua villa di Las Vegas e magari c'è un turista italiano che vuole andare a visitare questa città, per qualche giorno è disponibile a prendersi cura di questa casa e chiaramente risparmia molto sulle spese di vitto e alloggio. Per questo ho ritrovato in house sitting, in home sitting, che è la sua società, Grigio, la formula più vicina a quella sperimentata negli Stati Uniti, anche se non è identica. Giusto? Sì, esattamente. Ecco. Infatti le formule nelle quali si esprime l'house sitting sono queste due. La prima è stanziale, come giustamente lei diceva, e può andare da alcuni giorni ad addirittura dei mesi se si tratta di case vacanze. Quindi queste case vengono accudite dalle persone che ci vanno a vivere totalmente, quindi la casa viene sorvegliata per forza di cose, ci si può occupare del giardino. Se ci sono degli animali, anche questi rimangono in casa e quindi vengono accuditi come se fossero delle persone che ci sono andate a vivere. Certo. Altrimenti c'è poi la formula delle visite, generalmente si tratta di una visita giornaliera, possono anche essere due se c'è un cane che ha più esigenze, deve uscire, e questa è proprio la formula utilizzata dalla mia agenzia. Mm-hmm. Rispetto alla prima, che mi sembra di capire sia quella più di interesse per il tema della puntata, non sono sicura, io ho fatto delle ricerche, ma non so se in Italia ci siano delle agenzie apposite. So che ce ne sono moltissime in Gran Bretagna, dove è nato il servizio negli anni 80, e in altri paesi di lingua anglosassone. Quindi diciamo non ci sono, ecco, delle agenzie che si potrebbero occupare di chi arriverebbe in Italia, ma magari chiaramente se siamo interessati ad andare in un altro posto nel mondo, sicuramente a livello, come dire, mondiale ci sono molte invece società che si occupano proprio di questa, di questo incrocio di informazioni, diciamo così. Quindi se fossi interessata ad andare in una bella abitazione a Sydney, probabilmente troverei appunto in quella città, in Australia, una fonte di informazioni appunto per poter trovare il posto giusto dove andare a prendermi cura della casa di qualcun altro, giusto? Grigio? Assolutamente sì, bisogna iscriversi su uno o più di questi siti come house sitter, naturalmente penso che sia prevista una selezione. Sì, una quota, c'è anche una quota di iscrizione, chiaramente, perché magari uno lo vuole fare anche più volte nel corso di un anno, giustamente. Esatto. Una comunità che deve finanziarsi. Sì, va bene. È diventato veramente un modo di viaggiare gratis, diciamo, perché comunque si spende solo quello che si spenderebbe comunemente anche se si rimanesse a casa, con in più l'opportunità di visitare dei luoghi che magari mai nella vita ci si potrebbe permettere. E infatti è un'altra evoluzione, diciamo così, un po' dello scambio casa del quale abbiamo parlato tante volte anche negli anni passati a Salvadanaio. Esatto. Allora vi chiedo adesso un minutino di pazienza perché andiamo in pubblicità. 800 24 00 24 è il numero verde per le vostre domande, per le vostre testimonianze, soprattutto in diretta. Abbiamo già pronti Mattia da Monza, Pierluigi da Verona e pronta anche un'altra ascoltatrice, Isa da Bologna, che questa mattina, mentre abbiamo pubblicato l'informazione appunto su Facebook sulla nostra trasmissione di oggi, si è subito candidata perché è l'autrice di 101 cose da fare gratis in Italia. Salvadanaio. Montagna, collina, campagna, abbiamo tante belle località nel nostro paese e naturalmente lo avrete capito, oggi parliamo di vacanze, ma soprattutto parliamo di vacanze alternative, perché qualcuno quest'anno ha rinunciato a farsi la sua vacanza. Allora così un po' per coccolare anche queste persone che sono state costrette a questa scelta drastica, stiamo indicando loro tutte quelle modalità che ci sono per poter risparmiare sulla vacanza, che non è necessariamente solo hotel a 4 stelle e tutte le comodità del mondo. Ci si può riunire in gruppo, ci si può ritrovare anche per condividere le spese di viaggio, di casa e tante altre cose. Naturalmente stamattina siamo andati un po' a caccia di notizie curiose per condividerle con noi. Abbiamo interpellato Daniele Nuzzo, fondatore di roadsharing.com, per condividere l'auto, naturalmente determinati percorsi, Elisabetta Grigio di Home Sitting Milano per raccontarci invece un fenomeno non molto ancora diffuso in Italia, quello di magari così scegliere un'abitazione non solo in Italia ma anche anche all'estero, soprattutto da andare magari a curare nel momento in cui la famiglia è fuori, e quindi abbiamo l'opportunità di stare in una bella città senza dover necessariamente scegliere un hotel o un albergo. Isabella Tulipano, responsabile delle relazioni esterne di affitti, di solo affitti appunto per la modalità tradizionale, però anche la casa vacanza ci dà l'opportunità sicuramente di risparmiare su un budget teorico. E poi adesso sentiremo anche come funzionano tra qualche istante le vacanze roulette con Denis Loparco, titolare dell'agenzia viaggitui.it, specializzata in questa modalità. Tra l'altro l'abbiamo già raggiunto telefonicamente. Loparco, buongiorno. Buongiorno. Adesso le faccio alzare il velo appunto su questo modo per andare in vacanza, una sorta di vacanza last minute, però intanto sentirei anche qualche altra testimonianza di qualche altro ascoltatore che ci racconta un po' la sua ricetta per risparmiare in estate. Mattia, buongiorno, da Monza. Buongiorno. Più che per risparmiare, ahimè, io veramente ho chiamato perché veramente un po' nella disperazione, perché io avendo due bambini... E chiaramente una bambina che non è più una bambina perché ha 14 anni e il piccolino di 8, e chiaramente i miei bambini vogliono andare al mare. E io mi sono trovato la seconda metà d'agosto, perché ho degli obblighi di data, e tutti mi dicevano: no, ma vai tranquillo, perché tanto la seconda metà d'agosto in Italia vai dove vuoi, c'è tutto. E io ho detto: vabbè, proviamo. Però io mi sono collegato a internet, ho cercato mare, perché mare, e sono andato dalle Marche. La Toscana l'ho scartata quasi a priori, perché hanno dei prezzi per un appartamento, un appartamento al mare, e più ti avvicini al mare e più si moltiplicano i soldi che ti chiedono. E di conseguenza, dopo aver visto addirittura dei due stelle, degli alberghi due stelle, dove due settimane della seconda metà d'agosto arrivano a fare dei preventivi di 2.700 euro, 2.800 euro, io mi domando veramente dove siamo arrivati. Certo. Perché anche un Mattia, appartamento, quindi mi dica un po' l'appartamento, che adesso andiamo subito, sì, da Isabella Tulipano, le faccio fare un preventivo in diretta, guardi, vediamo un po' intanto qual è il suo budget, Mattia? No, ma io l'ho già provato. Ah, quindi è a posto. Io l'ho provato in Abruzzo, perché volevo spostarmi addirittura in Salento, ho detto io vado in Salento, ma anche lì, voglio dire, io non dico, di per carità, che una persona debba regalare, però non puoi chiedermi 1.700. No, ma Mattia, guardi, io condivido talmente tanto la sua affermazione, perché qualche volta, occupandomi di tanti argomenti, io mi chiedo dove stia la crisi, perché effettivamente anche io immaginavo appunto che soprattutto per la seconda parte di agosto qualche maniera le tariffe si potessero calmierare. Mi dispiace molto che lei non sia potuto venire appunto nelle mie Marche, e quindi insomma anche questo è un messaggio che diamo a tutti gli operatori del turismo di quella zona, appunto per i prezzi così alti che continuate a mantenere, e vi siete pregiudicati anche un rapporto di amicizia nuova con nuovi turisti. Isabella Tulipano, sono davvero così alti per la seconda settimana d'agosto ancora i prezzi anche per una casa vacanza nelle più note località della Riviera Adriatica? Sì, diciamo che qui c'è veramente una grossa differenziazione rispetto appunto a quelle che sono le località maggiormente richieste, quindi Sardegna, Toscana, insomma alcune località che conosciamo bene, e altre zone in cui il mare invece è altrettanto bello ma anche più conveniente. Per esempio, noi segnaliamo sempre la zona della Liguria, che è una zona in cui si va in vacanza, insomma anche qui scegliendo le località giuste, oppure appunto il Salento oggi è una di quelle località particolarmente richieste in cui i prezzi sono sicuramente cresciuti. In generale diciamo che i canoni di affitto nell'ultimo anno sono comunque scesi, e purtroppo gli italiani concentrano la loro vacanza in quelle che è la seconda e la terza settimana di agosto, e questo fa salire indubbiamente i prezzi. E, insomma, bisognerebbe, è ovvio, rispetto a quelle che sono le possibilità, però, insomma, di lavoro. Da quello che capisco, Mattia invece ci ha segnalato un fenomeno di forte rigidità dei prezzi. Comunque, nonostante la crisi, non sono scesi quanto ci si poteva aspettare. Ma in quelle settimane, magari non particolarmente, si compra meglio forse giugno-luglio e l'ultima di agosto-settembre, certo. E l'alta stagione in Italia si concentra proprio in quelle due settimane per forza di insomma esigenze lavorative un po' di Benissimo. Tutti. Insomma, anche lì, anche spirito di iniziativa e la possibilità di avere magari l'opportunità di fare la vacanza non in alta stagione ma in altri periodi, ma non è possibile per tutti, come nel caso appunto del nostro Mattia da Monza. Isa da Bologna, buongiorno. Buongiorno. È piacere, ciao. Intanto di conoscerti. Isa, posso piacere. Dire il cognome anche perché l'abbiamo certo, visto sì, Grassano. Sì. Quando sì, ha visto sì. che abbiamo pubblicato il tema della trasmissione di oggi di Salva Danaio su Facebook, ci ha subito scritto: sono l'autrice di 101 cose da fare gratis in Italia. Questo Newton Com- per me è un mantra. Esatto. E anche se il libro è uscito l'anno scorso, credo che le ricette che tu proponi, Isa, siano validissime. Sono valide. Sono valide. Allora, come ti organizzi con le tue vacanze, con le tue amiche? Ma allora, innanzitutto propongo una destinazione dove magari il mare, diciamolo, non è proprio trasparente, però le vacanze sono convenienti perché è la Riviera Romagnola, dove ci sono delle tantissime offerte, a cominciare da alcuni hotel che addirittura rimborsano il treno, il biglietto del treno, e quindi già siamo a risparmio. E dove li hai trovati questi hotel che fanno questa iniziativa? Ce ne sono diversi, basta cliccare su internet hotel treno rimborso e si compaiono, e quindi basta poi presentare il costo del, cioè, del il treno, titolo di viaggio, e chiamiamolo per una così. Settimana lo rimborsano, solo all'andata, se fai 2 settimane ti rimborsano andata e ritorno. Però, poi sempre sulla Riviera Romagnola c'è un servizio di biciclette gratuito, e quindi magari anche lì per muoversi prendi la bicicletta, non hai il costo degli spostamenti e giri. E poi soprattutto la lo stress vicino. Dell'auto, perché parliamoci chiaro pure quello, insomma, con le città che si affollano, parcheggiare è un incubo, e quindi insomma buona idea anche questa, infatti, Isa. Poi? E poi la Riviera è ricchissima di eventi che puoi seguire gratuitamente, o addirittura di laboratori per divertirti in spiaggia, chi è appassionato di cucina può imparare a fare la piadina o a imparare a cucinare i piatti tipici della tradizione emiliano-romagnola, e li fai in spiaggia, ti diverti con tanto di attestato e non paghi niente. Se vuoi imparare l'inglese c'è un bagno, il bagno Romeo, che organizza una sorta di proprio di isola dei famosi dove si parla in inglese e quindi si gioca e ci si diverte. Quindi Isa, parliamoci chiaro, drizzare le antenne un attimo, insomma, infatti, di tante cose interessanti si trovano. Posso chiederti dove vai quest'anno? Io quest'anno torno nella mia terra natia, la Basilicata, che è un'altra terra bellissima e low cost, quindi anche quella potrebbe essere un'idea per le vacanze, certo, insomma. E senza fermarsi sempre alle solite località appunto più rinomate, dove ancora i prezzi, come ci dicevamo sono prima, alti. Appunto sono molto alti. Aspetta Isa, io se ti fa piacere rimani ancora in diretta, certo, con noi, così magari condividiamo anche le altre esperienze degli ascoltatori che ci stanno chiamando, e magari se hai anche dei suggerimenti per loro li raccogliamo volentieri. Vorrei sentire Pierluigi da Verona. Pierluigi, buongiorno, all'800240024, ci dica. Ah, niente, io è un po' di anni che praticamente condivido un appartamento o comunque un bungalow in campeggio con amici praticamente. Mm-hmm. Ad esempio 2 anni fa mi costava 1200 euro di 2 settimane, 600 euro a settimana, e in quel caso lì mi è costato solo 600 euro e mi sono fatto 2 settimane. Infatti, insomma, quest'anno dovrei fare una settimana, perché non dovevo fare neanche quella, mi costa 300 euro perché vado la seconda di settembre, vado via sempre con degli amici e mi costa 150 euro. Certo, quindi quest'anno non dovevo neanche farla, però insomma grazie a un amico che condividiamo riusciamo a farci. Infatti per lui bambini, ecco. È il buon senso che ci deve muovere un po' in queste circostanze, no? Per quale motivo ci dobbiamo sacrificare? L'ho già detto prima, lavoriamo tanto durante tutto l'anno, l'anno è interminabile, guardiamo ad agosto come ad un miraggio, quando arriva non possiamo neanche andare due giorni fuori a staccare la spina. No, organizziamoci, e magari appunto chiaramente è chiaro che è meglio farlo con gli amici più affidabili, quelli che conosciamo da più tempo, non è che anche lì si può improvvisare, però insomma avete sentito Pierluigi che cifre è riuscita appunto a spendere molto contenute per una vacanza sicuramente di tutto rispetto. Grazie anche a lui. Andiamo un po' a queste vacanze roulette. Dennis Loparco, ancora buongiorno. Buongiorno. Il nome è tutto un programma e ci rimanda, come dire, a gesti di altro genere, però andiamo un po' a sentire questi viaggi roulette, che sono, non credo che siano solo una trovata del marketing turistico. Che cosa fate esattamente? Ma allora, sostanzialmente la formula roulette è una formula di viaggio che consente appunto una sorta di risparmio, in quanto ha una struttura dietro, viene organizzata in una maniera tale da parte dell'operatore che organizza il viaggio, che va sostanzialmente a comunicare il nome della struttura alberghiera solamente a ridosso della data di partenza. Questo per quale ragione? Lo fa appunto per distribuire al meglio i posti che ha tra i vari passeggeri rispetto ai vari alberghi disponibili della destinazione. Ci faccia qualche esempio. Stamattina per esempio quanti viaggi avete dato via? Ma allora, stamattina su ancora roulette no, però ieri 2 ad esempio. Ecco. Quindi è una formula che va abbastanza, paradossalmente per un nucleo familiare di 2 adulti e due bambini per quanto riguarda Maiorca in un hotel 3 stelle con una mezza pensione, per la settimana centrale di agosto abbiamo fatto dei pacchetti a 2150 euro tutta la settimana, comprensivo di volo, trasferimenti e colazione e cene per 7 notti. E mediamente una settimana invece normale quanto costerebbe appunto in questa località? Su Maiorca con una struttura 3 stelle con nome e cognome, a pari condizioni, a pari condizioni, dove il cliente va a scegliere direttamente la struttura, non meno di 2006-2007. Quindi il risparmio in questo caso è stato di 500-600 euro, che non ci fa proprio... 500 euro, questo perché l'operatore va a distribuire al meglio i suoi posti, avendo più hotel 3 stelle, è l'operatore stesso che va a decidere l'ubicazione esatta e va a suddividere meglio i propri posti, perché se noi abbiamo l'hotel A, l'hotel B e l'hotel C, e ci sono 3 posti per ogni hotel, ma entrano 9 prenotazioni, ma 9 prenotazioni vogliono solo l'hotel A e il B e il C rimangono semi vuoti. Con la formula roulette l'operatore stesso riesce a ridistribuire i 9 posti, quindi 3-3-3, al grado di riempimento totale, riempiendo tutti i suoi posti a disposizione riesce a scontare ulteriormente il prezzo al cliente finale. Vacanze all'insegna del risparmio, dalla suddivisione della bicicletta, addirittura quella dell'auto, la formula della condivisione di un mezzo di trasporto, ma anche di beni e servizi come le case vacanza. Ormai appunto il tema della condivisione nella fase delle ferie è diventato di uso comune, perché chiaramente è diventata la nostra priorità quella di risparmiare in ogni modo possibile. Però ribadisco, in molti già quest'anno hanno rinunciato, oltre che alla vacanza, anche a tante altre cose. Ci sono molte difficoltà per molte famiglie, però siccome tutti lavoriamo davvero tanto nel corso di tutto l'anno, allora cerchiamo di così suggerire quelle che possono essere le modalità alternative per godersi qualche giorno appunto di riposo, magari non nella località dove si abita ovviamente tutto l'anno. Con noi questa mattina un parco ricchissimo appunto di esperienze. Sentirei Said da Milano e poi continuiamo a chiacchierare con i nostri ospiti. Said, buongiorno. Buongiorno. Rinunciare alle ferie, secondo me, uno fa di tutto per risparmiare 4 soldi per andare in vacanza. Noi già il terzo anno che andiamo, io e la mia signora, ho un figlio di 15 anni quest'anno. Sì. Andiamo in Spagna. In Spagna perché? Perché lì i prezzi sono precipitati, molto, esatto, soprattutto nella zona dove vedo che va lei, che conosco, Said, perché ci sono stata qualche anno fa, in Costa Brava. Costa Brava, sì. Ecco. Noi, come dicevo la signorina lì del centralino, una matrimoniale, una singola, 2 settimane spendiamo 1560 euro, certo. Pensione completa. E parliamo di Spagna, Said, appunto, quindi... No, allora, magari anche in Italia si trova una struttura 3 stelle che può fare gli stessi prezzi con un 10-20% in più, 10-20% in meno. La cosa che io personalmente non accetto è che le spiagge le devo pagare. Mi costano più le spiagge che quello che mangio, quello dove dormo. Altri problemi. Invece qui è una pensione completa, Said? Pensione completa, piscina a 3 stelle, la struttura a 400 metri dalla spiaggia e la spiaggia è libera. Said, grazie, sì, è un tema che conosciamo, che abbiamo affrontato anche qua. Isa da Bologna, volevi dire qualcosa su Grassano, sul tema appunto della spiaggia, effettivamente anche lì magari nei tuoi suggerimenti. Di spiaggia, per esempio, ci sono alcuni bagni che in cambio di qualcosa ti offrono l'ombrellone gratuito, per esempio viene una marina di massa, il bagno Oliviero, alla... Se sai un po' di inglese e trattieni gli ospiti parlando in inglese. Ma sì. quello è lavoro Isa, no dai. No, non è il lavoro, perché uno che lo parla bene in maniera fluente fa anche amicizia, esatto, un po' così. Esprime al meglio la sua così attitudine internazionale. Isa, grazie. Sì, il tema della spiaggia comunque è vero, perché qua magari risparmiamo solo hotel e poi ci dissanguiamo appunto per prenderci un lettino e un ombrellone magari proprio per stare fronte riva. Allora, chi ci rimane? Dennis lo parco, ancora ritornando alle vacanze roulette, quelle proprio dell'ultimo minuto. Cosa dobbiamo fare appunto per poter approfittare di un'offerta di questo genere? Dobbiamo iscriverci al vostro sito, per esempio, o a quello di altre agenzie che magari appunto operano attraverso lo stesso criterio? No, non c'è alcun tipo di iscrizione da fare. Abbiamo un nostro portale di riferimento, anzi ne abbiamo due, uno che è www.tui.it e il secondo che è www.popvision.com/agenzietui, dove tutte le nostre offerte roulette e non solo roulette sono visibili senza alcun tipo di iscrizione. Quindi ammettendo che a me interessi così fare un esperimento di questo genere, che cosa devo fare? Devo già magari darvi la rosa possibile delle località che mi interessano? Sì, ci può, chiaramente ci sono nel nostro portale c'è un'area contatti dove si possono indirizzare chiaramente le richieste di preventivo. Se ci fosse qualcosa che non ha visionato all'interno del nostro portale, come interno, inteso come formula roulette, e noi possiamo chiaramente inviare una mail ad hoc diretta, precisa, in base alla destinazione che ci ha richiesto, con le nostre proposte formule roulette oppure non roulette. Qualora va bene. E se uno, se un utente, diciamo, del vostro sito, un vostro possibile cliente, poi non è soddisfatto della meta appunto dove decidete di mandarlo, è obbligato a partire lo stesso o può rinunciare? No, può rinunciare, nel senso che noi formuliamo una proposta di preventivo, chiaramente, poi il cliente è libero ovviamente di accettarlo o no. Allora, in Turchia lettini ed ombrellone gratis a patto di consumare un paio di bibite, appunto, ci racconta un ascoltatore. Ce n'era un altro, volevo ritornare per un attimo a Daniele Nuzzo di Road Sharing, che appunto non siamo riusciti appunto a pescarlo telefonicamente, era un ascoltatore che si era prenotato all'800240024, che dice: questa modalità di trasporto non è legale, perché quando c'è corrispettivo un privato non può farlo. Ma che tipo di corrispettivo c'è? Non esiste esattamente. Nuzzo. Non c'è un corrispettivo, il servizio è totalmente gratuito e il rimborso è da parte dell'utente, poi entra una condivisione, di solito una divisione della spesa del pedaggio, della benzina. Quindi non è un corrispettivo per il servizio di guida. Oppure di non c'è il corrispettivo, diciamo, per voi che avete permesso appunto che si incrociassero queste persone che hanno questo bisogno di viaggiare insieme. La nostra piattaforma è completamente gratuita. E voi che cosa ci guadagnate, Nuzzo? Mi racconti un po'. La piattaforma ci ha servito praticamente come base, noi facciamo questo lavoro, sviluppiamo progetti web, quindi capito. È stato un progetto fatto internamente che ci ha servito, e poi abbiamo della pubblicità sul sito, certo. Quindi minima pubblicità. Tutto trasparente, grazie Daniele. Allora, ancora un paio di ascoltatori, poi stiamo andando verso la conclusione. Francesco da Brescia ci dà il suggerimento principe, naturalmente, per fare delle vacanze all'insegna del risparmio, però anche lui ne sarà totalmente consapevole, non è possibile per tutti. Francesco, buongiorno. Buongiorno. Niente, volevo dare la mia esperienza. Io sono della provincia di Brescia, ma vivo, sono nato e cresciuto nel Salento, dove ho i miei genitori. Sì. Fino a 3 anni fa andavo a mare nel Salento nel mese di agosto. Vabbè, lì lei aveva la casa, mamma e papà. Sono andato, certo, ma i prezzi per andare anche fuori a mangiare qualcosa erano lievitati in un modo stratosferico. Da 3 anni a questa parte vado in ferie, 15 giorni a luglio, i primi due, sono andato in 4 villaggi turistici diversi. Ho trovato, oltre a un risparmio economico per prendere un appartamento, perché ho 3 bambini, ho trovato anche tanti servizi che nel mese d'agosto sono tutti a pagamento, dall'ombrellone, la bicicletta, addirittura quest'anno sono stato a Ostia e nel campeggio dove sono andato ci avevamo anche l'abbonamento settimanale gratis della metro per muoversi dentro la città. Francesco, lo so. Questa è solo la mia esperienza, infatti continuerò ad andare sempre in ferie a luglio, visto che riesco a scegliere il periodo di ferie. No, ma io, questo è vero, è universalmente riconosciuto che chiaramente viaggiando e circolando, muovendosi in periodi che non sono di alta stagione, appunto si risparmia molto, oltre alla comodità. Vi racconto la mia esperienza: sono andata negli Stati Uniti adesso giugno, sono partita di mercoledì e tornata di giovedì, aeroporti vuoti e una vacanza che in agosto avrei pagato il triplo. Poi chiaramente mi sono organizzata con l'amica, ho fatto tutto solo, ho cercato su web e quant'altro, però effettivamente un prezzo radicalmente diverso rispetto a quello teorico che avrei speso in agosto. L'ho potuto fare, naturalmente sono una persona fortunata, adesso prenderò pochi giorni ad agosto e un'altra settimana a fine settembre, ma praticamente l'80% della popolazione italiana. Isabella Tulipano, non so se lei vuole commentare anche così in relazione al traffico di dati e richieste magari che vedete sul vostro sito su Solo Affitti, non so se condivide appunto con me. È chiaro che i prezzi sono tutt'altra cosa in altri momenti dell'anno. Magari abbia senso provare a pensare a delle mete alternative. Adesso guardando, abbiamo ancora per esempio noi disponibilità proprio per la settimana di Ferragosto con prezzi a partire anche da 24 euro a persona in località. Ce le dica un po' queste località, ecco. Facciamo un po' se avessimo invogliato qualcuno a spendere quei due soldi che sono rimasti. La campagna Umbria come alternativa insomma al classico mare, o Sciacca, insomma sicuramente mare ma meno di prestigio rispetto ad altre località, oppure appunto la Liguria, le Cinque Terre, abbiamo qualcosa insomma ovviamente più costoso a Viareggio, però c'è ancora un po' di disponibilità. Angela da Roma, che cosa ci vuole raccontare invece, che cosa ha sperimentato quest'anno per non dissanguare il portafoglio per la vacanza? Angela, buongiorno. Buongiorno, ciao a tutti. Allora, io ho, a parte che ho una lunghissima esperienza anche degli appartamenti nei villaggi, esperienza positivissima da sempre, però tornando alla casa vacanza, io sono anni che ho scoperto questa cosa, tra l'altro come te ho fatto tutto da sola, mi sono appiccicata a internet Ecco, e ho trovato un'ottima agenzia che si è occupata di tutto, mi sono trovata benissimo sia come vacanze estive e sia come in vacanze invernali, perché no? Certo. Che la vacanza è anche cultura, secondo me, è anche turismo e anche visitare città straniere, cioè io ho affitto questi appartamenti sia in Italia che all'estero. Mm-hmm. La cosa che ho notato ovviamente, e in questo periodo è fondamentale, è il risparmio, perché si vaga molto meno di un albergo, molto meno, perché è ovvio, si può cucinare, si può stare in più persone, ci sono di vari tagli ovviamente questi appartamenti e sono curatissimi. Mm-hmm. Almeno questi dell'agenzia a cui, certo, io mi sono rivolta. Ma sì, fino, certo, all'ultimo cucchiaino. Quanto, quindi, risparmia lei con queste scelte, Angela? Beh, parecchio. Io almeno facciamo conto 15 giorni, perché io ho potuto e sono andata. Sono anziana, ho 62 anni. Ma sono che anziana, Angela, la sente che è giovanissima, molto attiva, molto vivace. Quindi, complimenti. Adesso mi permetto quello che prima non potevo, anche se con la dovuta attenzione. Certo. E quindi diciamo che su 2 settimane ho risparmiato almeno 700-800 euro. Mm-hmm. Allora, l'ultima testimonianza, grazie Angela, buon viaggio per tutti quelli che farà. Naturalmente l'ultima testimonianza la raccogliamo da Andrea da Modena, che deve essere telegrafico. Buongiorno. Buongiorno, salve. Io volevo solo dare come consiglio, ho avuto anche esperienza diretta, di cercare i viaggi, soprattutto magari in Egitto o altri posti, su tour operator esteri, magari dell'est Europa, che quasi tutti hanno i siti in inglese. Però i prezzi per lo stesso servizio sono quasi il 50% rispetto ai tour operator italiani. E vabbè, adesso qua se si sentono gli italiani ci telefonano subito. Andrea, comunque le ringrazio, raccogliamo anche il suo suggerimento. Le modalità sono tante, il tema è avere anche un po' di tempo naturalmente per andare a navigare su internet, informarsi, però se non ci riduciamo, come per tutte le cose, sempre all'ultimo minuto, possiamo trovare sicuramente la soluzione che fa per noi. Io ringrazio tutti i tantissimi ospiti che ho avuto questa mattina, non li ripeto perché devo chiudere. Ci sentiamo questa sera alle 17:10 a Focus Economia. Da Deborah Rosciani, buona giornata.